che vuol dire ti va di ballar con me. Mani su, mani giù, mani dove vuoi, questa musica e il ballo che piace a noi. Anche tu, proprio tu, che non balli mai, anche tu salta su, balla insieme a noi. Questa musica è un'isola in mezzo al mare, basta chiudere gli occhi e verrà da te. Non nasconderti, lasciati conquistare, volevo, volevo, volevo con sé. Mani giù, mani dove vuoi, questa musica è il ballo che fa per noi. Anche tu, proprio tu, solo che ci fai, non nasconderti più, vieni insieme a noi. Questa musica è un'isola in mezzo al mare, basta chiudere gli occhi e sapere.